música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Inizierò con un aneddoto di vita vissuta nemmeno un'ora fa. È una mattina tristissima a Roma. Da giorni dicono che oggi avrebbe nevicato. Non è che abbia proprio nevicato, ma c'è quel tempo incerto fra pioggia, neve, bufera, tempesta, non si sa bene. Il cielo è grigio. La gente guarda per terra con dei musi lunghissimi. Io salgo in metropolitana, nella calca del vagone della metropolitana vedo sedute due suore africane, erano molto divertenti, sono simpatiche. Le suore africane non sembrano nemmeno monache, per questo sono divertenti. Anche il velo che mettono in testa sembra quasi un cappello folle, pazzo, sembra che vadano a una festa, non che siano esempio di mortificazione femminile. Anche perché sotto le tonache da suora escono fuori le scarpe da basket. Quindi erano molto simpatiche, allegre con le loro giacche a vento, ridevano, scherzavano, sembravano due ragazze che stessero per andare a ballare. A una fermata, improvvisamente, mi sembra Piazza di Spagna, sale un prete africano. Vedo che è prete, che aveva il solino, pieno di bagagli, aveva 3-4 computer, valigie, trolle, così. Anche lui simpatico, un bel ragazzo paffuto. Come lo vedono, le suore schizzano tutte in piedi, lo fanno sedere. Già mi è sembrato meraviglioso questa sorta di antitetico sentimento ancillare nei confronti del prete. Come vedi, le suore si alzano, fanno sedere il prete. Lui si siede, poi tutto intorno si vede che lo omaggiavano. Lo guardo un po' bene e vedo che aveva un grosso anello d'oro e sotto dai pantaloni uscivano dei calzini color porpora, quindi quello era un vescovo. E mi ha dato un'allegria immensa pensare che un vescovo delle suore dentro una metropolitana, in mezzo ai ragazzi con le cuffiette al collo, in mezzo alle persone indaffarate, quelli con la Free Press in mano, alla puzza terribile che c'è nella metropolitana, avessero aperto con un angolino quasi gioioso. Sembra che da un momento all'altro si dovessero alzare tutti in piedi e si dovessero mettere a ballare, a cantare qualcosa. Erano tutti allegri, non so, un momento di allegria. Non mi sembra vero che un vescovo fosse seduto in metropolitana con i suoi calzini color porpora, con delle suore intorno, che sembrava che stesse per andare a una festa. Poi mi sono ricordato che oggi è Giovedì Grasso. È il giorno in cui tutto può accadere e tutto deve accadere. E mi sono ricordato che nelle tradizioni pagane più antiche, il giorno di Carnevale veniva eletto un episcopellus, un bambino, un piccolo vescovo fittizio che non esisteva, che doveva simboleggiare la strage degli innocenti, ma doveva dare anche il segno che in questo giorno tutto è permesso. Oggi è il giorno in cui ognuno vi istiga alla dissolutezza e volete perdere questa occasione. Questo carro che cosa rappresenta? La tribù degli indiani. Sei vestita da gatta? Capa tribù indiana. Adoro, saluto. Tigre sexy. E te invece il carnevale cosa significa? È divertimento, fascino e eleganza. Questo. Tantissime cose, prima di tutto divertimento tra tutti i gruppi che vi partecipano. Il carnevale è molto per me. Divertimento puro per noi e per i bambini. Ciao mamma! Ecco, questa è la cialtronaggine che si è impossessata del carnevale. Perché nessuno oggi è istigato alla dissolutezza? Perché oggi tutti fendono la tristezza di una giornata plumbua con i volti allungati? Perché l'alternativa carnascialesca dissoluta altro non è che questa patinata e fittizia tarocca immagine del divertimento televisivo, drag queen, festoni, lancio delle arance, carnevali di Viareggio, mascheroni, carri allegorici. Già immagino tutte le inviate, la vita in diretta dei Verissimo, dei Pomeriggi 5, dei 7 mattina, degli 8 pomeriggio, che vanno in giro con i loro microfonini a rapire e carpire brandelli di finta trasgressione, di dissolutezza a favore di telecamera. Beh, questa mattina riusciamo noi tranquillamente, serenamente, visto che nessuno ce lo vieta, anche quelli più intrisi e più giustamente attenti al rigore etico, morale, religioso, sappiano che oggi possono fare quello che vogliono. Oggi è Giovedì Grasso, oggi è il giorno in cui nessuno rimproverà nessuna dissolutezza. E cosa significherebbe per voi oggi essere dissoluti? Come vorreste, come potreste? Ancora avete tempo, perché sono soltanto le 10 di mattina. Pensate da qui a mezzanotte quante cose si potrebbero fare. Ecco, 800 24 00 24. Raccontiamoci oggi i nostri desideri di dissolutezza, carne scialesca. Per me la libertà è fare il biglietto di sola andata. Io volo in continuazione. Sarà perché dipingo, cosa non lo so, oppure perché la mia realtà è questa. Però faccio dei voli acrobatici dalle montagne a terra, su e giù, in continuazione. Ed è una cosa da sballo. Abbiamo preso qualche barlume di desiderio di dissolutezza da parte dei nostri ascoltatori. Sono messaggi che restano ancorati nella nostra segreteria telefonica. Oddio, a me mi è arrivato un SMS, lo posso dire pubblicamente. Mi è arrivato un SMS durante la replica notturna. Non so chi me l'abbia mandato, non voglio nemmeno saperlo. Era una proposta molto osè da parte di una persona sconosciuta. Vuoi amico che mi ha fatto uno scherzo, vuoi amica che mi ha fatto uno scherzo, vuoi moglie che fa un tentativo per provare la mia ferrea fedeltà, vuoi giustamente ascoltatrice gruppi che è riuscita ad avere il mio numero di telefono. Forse ve lo leggerò alla fine, non so se ve lo leggerò. Spero di procurare brividi di terrore in chi me l'ha mandato, perché il numero è rimasto in memoria del mio telefonino. Apriamo il nostro solito dibattito. Chi vuol parlare? Lei, Filini? Calboni. Scusi? Posso dire una parola io? Ah, la nostra merdaccia! Venga, venga, Fantocci, si accomodi. Finalmente ha trovato le parole. Chissà quale profondo giudizio estetico avrà maturato in tutti questi anni. Dica, dica. Allora? Per me, la corazzata Potemkin è una cagata pazzesca! Due minuti di applausi! Pensate, il povero Fantozzi, che ha avuto il dissoluto coraggio di dire esattamente quello che pensava, lo pagherà carissimo, rimarrà in ginocchio sui sassolini non so per quanto tempo, lo pagherà, ma è nato per pagare. Tutta la nostra vita è un lungo, doloroso e terrificante cammino di espiazione. Però ci viene concesso un giorno all'anno, forse due giorni all'anno, anzi il periodo che va da oggi fino a martedì grasso. Quindi in teoria avremmo quasi una settimana di dissolutezza in cui potremmo essere dissoluti. E non date a l'accezione più lubrica al senso di dissolutezza. Non intendo solamente essere dissolti in quel tipo di concupiscenza, anche quello, ben venga anche quello se c'è, ma la dissolutezza è il fatto che si possa dire ciò che si pensa in un giorno di totale rovesciamento di tutte le gerarchie, di tutte le certezze, di tutte le leggi umane e divine. Ognuno è padrone della propria individuale voglia di dire quello che pensa, e non perdiamo questa occasione. 800 24 00 24, attendo fiducioso proposte di dissolutezza. Quanto adoro la satira pungente! Mi fa! Ora tocca a Simmons! Simmons è deceduto! Avrebbe dovuto ritirarsi il secolo scorso, ma a casa non ci torna perché odia sua moglie! Che poi l'avete conosciuta alle feste di Natale, lei è quella che si ubriaca e che lo definisce un ritardato! E tu, Tom, tu sei il più grande ruffiano che abbia mai conosciuto! Hai la testa talmente ficcata nel culo di Alan che non riesco a capire dove finisci tu e comincia lui! Ti prego, continua! Tu hai l'alito pesante per colpa della gengivite! Tu folli vesti con una porno star! Il tuo parrucchino assomiglia a un animale schiacciato al centro di un incrocio! Non so se pettinarlo o rasparlo via con un raschietto e seppellirlo nel concime! Fallito! Idiota! Frocio! Degenerato! Lo guardate, bugiardo, bugiardo, un avvocato, Jim Carrey, riesce a essere bravissimo nel difendere i suoi clienti perché è un grandissimo bugiardo. Però per un meccanismo e un sortilegio deve dire tutta la verità. Improvvisamente comincia a dire tutto quello che pensa. Pensate, immaginate il senso di liberazione, il senso di rottura con il reale, di rottura con la tenuta, con la necessità sociale, con la necessità di tenere buoni rapporti. Se un giorno all'anno si può dire tutto ciò che si pensa, perché rinunciare a questa meravigliosa occasione? Comincio a leggervi qualche messaggio che mi arriva su Facebook, dove mi rendo conto che è molto faticoso, veramente improbabile in una società in cui sembra tutti siamo pronti alla trasgressione. Sono giorni che ricevo telefonate da vecchietti aspiranti scambisti che mi propongono le loro formule matrimoniali eterodosse e fantasiose come una regola ormai acclarata, ma trovo invece grande difficoltà nel trovare qualcuno che telefoni questa mattina per dire banalmente: oggi, nel giorno della dissolutezza carnascialesca, io vorrei dire quello che penso al mio vicino di casa, o semplicemente vorrei uscire senza scarpe, vorrei mettermi i pattini a rotelle. E un giorno che mi sentivo voglia di dissolutezza, misi i pattini a rotelle e andai a lavorare con i pattini a rotelle. Mi presero per matto, ma mi divertì tantissimo. Beh, Marta ha dei dubbi, perché dice: secondo lei Carnevale era la prossima settimana, quindi nemmeno ha avuto l'occasione di essere lambita dalla possibilità che oggi sia il giorno della dissolutezza, nemmeno se n'era accorta, per questo è fra le persone che camminano tristi nella nebbia. Sebastiano è già ingrassato solo a pensare che oggi può fare ciò che vuole. Katia: a Modena c'è lo sproloquio della famiglia Pavironica, tempo permettendo potrei andarci, non so cosa sia, ma penso sia qualcosa di meraviglioso, proprio perché non si capisce. Francesca: ebbene sì, la cosa non mi tange minimamente. Benissimo, rimanga nella sua tenuta ferrea, rimanga cementata del suo rigore per tutta la vita. Michele Pensani: la prossima settimana c'è il martedì grasso, l'ultimo di carnevale che anticipa la quaresima e comincia col mercoledì delle ceneri. Ha ragione Gianluca Nicoletti. Oggi è giovedì grasso, inizio della tradizionale orgiastica, ultima settimana carnevalesca. Nessuno si accorge più che è la settimana di carnevale. Io ricordo che da bambini era una meraviglia, un po' perché ci mascheravamo, un po' perché era festa, un po' perché le donne ci facevano gli struffoli con il miele e con le pallettine di zucchero, ma un po' perché potevamo fare veramente quello che potevamo. Brunella. Sì. Oh, finalmente. Sono qui, senti Nicoletti. No, sento un eco, terribile. Tolga il viva voce però. Ah sì, allora ti dirò una cosa, che io sono vedova da 4 anni, abito in una campagna di Siena e l'unica mia consolazione, pur avendo mio figlio e mia nuora sotto il mio appartamento, è l'ascoltarti alla mattina. E questa è la mia dissolutezza, perché non so quanto tempo è che vorrei parlarti e dirtelo. Ma questa è quotidiana. No, scusa Brunella, dissolutezza è un giorno che fai qualcosa che non hai fatto durante l'anno. Ecco. E mi ascolti tutti i giorni, dov'è la novità? No, la novità non c'è, ma la dissolutezza è quella che mi ha permesso di chiamarti, perché mi vergogno perfino, ma però, dato che oggi parlavi di questo, ho detto vabbè, la mia dissolutezza non è un'azione, però è un pensiero. Ecco. I pensieri, guarda, scavano nel profondo. Quindi oggi la tua botta di vita è parlare alla radio? Con te, sì. Di quello che vuoi dire a questo punto. È carnevale, non è che puoi limitarti semplicemente a dire sì, ti ho parlato. Dov'è la dissolutezza? Non tocco con mano ancora il frutto carnoso della dissolutezza. Purtroppo non lo potrai toccare né io né te, perché io per l'età e te per la tua... È molto avanzata l'età? C'ho 69 anni, figurati un po'. Beh, un pochino avanti nell'età, infatti. Diciamo. Però guarda, se aspetti, una decina d'anni ce li ho anch'io. Aspetto, non so se ci arrivo, sai Gianluca. Comunque ti ringrazio. Beh, scusa, per la compagnia. Adesso non voglio dare un senso di tristezza mortifera. Se è il giorno di dissolutezza, anche a 69 anni, avrai una botta di vita in testa a poter fare. Raccontaci. No, non ce l'ho più, Nicoletti. Ma nemmeno il giorno di carnevale? Ma nemmeno il giorno di carnevale. Per me, da quando è mancato mio marito, che fra l'altro era un marittimo, per cui era in giro per quindi molto tempo. Aveva dell'anno. Una donna in ogni porto. No, questo sai? Non credo. Sì, come no. Cioè, ho dovuto non pensarlo per poterlo sposare, capisci? Perché se no non l'avrei mai sposato. E allora raccontami il momento più dissoluto di quando lui rientrava dopo mesi di navigazione. Allora, ti dirò, ero in collegio, perché da casa ero ritornata in collegio, perché i miei erano più peggio, insomma, sono ritornata in collegio dove c'era quel reparto dove le ragazze potevano uscire a lavorare, io facevo l'impiegata, e la dissolutezza è stata che una mia amica aveva un monolocale e quando è arrivato mio marito dagli Stati Uniti, mi pare che tornava, ci siamo rinchiusi per 3 giorni in questo appartamento prestatomi dalla mia amica e non siamo più usciti per 3 giorni. Naturalmente puoi immaginare cosa si è fatto, insomma, perché dopo 9 mesi che lui era via, e insomma io beh, non avevo esperienze carnali, cioè, a t'hanno quell'epoca. T'hanno portato fuori con la carriola praticamente, dopo tre giorni. No, ero abbastanza vispa. Beh, soprattutto, che... sai, dopo anni di collegio e di segregazione, forse qualcosina da spenderti avevi? Sì, certamente, ne avevo tanta da spendere, sì. Senti, l'avevi mai raccontato a nessuno questo episodio? No. Ecco, vedi, oggi questa è la tua botta di dissolutezza, hai raccontato la botta di vita della tua vita. Tre giorni chiusa col marinaio, tu pensa, nascosta nel collegio, chiusa nella morbosità delle guardiane, delle colleghe, tu immagina quella stanzettina che avrà visto. Sei fortissimo, guarda, io ti abbraccerei. No, adesso calmi, no. Questa sarebbe un'altra dissolutezza. Comunque, vabbè, ti senti, ringrazio. Una bottiglietta di vino te la potrei comprare dall'osteria. Però sono astemia. Vabbè, sono una tristezza. Astemia. Sono addirittura astemia, sicché neanche il vino mi fa compagnia. Fatti compagnia con questo bel ricordo dei tre giorni nello stanzino, sai? Sì. In fondo aiuta. Ma mi fa più compagnia di averti sentito, di averti ascoltato. Va Sei bene. Forte. Ciao, addio. In bocca al lupo. Gabriele. Pronto, sì, io mi ha fatto ridere la cosa. Mi fa con quanto è stato detto prima. Sì, però voglio qualcosa di altrettanto dissoluto. Se non mi raccontate qualcosa di dissoluto, io dico, se io dico che, ad esempio, l'Ulisse di John Joyce è una boiata pazzesca, illeggibile. Sì, è una noia, una cosa bestiale. Un libro che tutti sembrano ad aver letto, un libro noiosissimo, un mattone. Se io dico che i concetti spaziali di Lucio Fontana sono altrettanto delle boiate pazzesche. Assolutamente vero. Se io dico che ci sono delle cose che sono elitarie soltanto per chi vuole essere così, i concerti di violino di Haydn sono la meraviglia, poi dopo magari tutti ascoltano Laura Pausini. Giustamente. Infatti, però essere un deficiente, per essere uno che non capisce... Dica un'altra cosa culturalmente sacra che in realtà è una boiata. Sì, è vero. Non dedica un'altra, così. Ah, altre? Sì. Ma guarda, potrei dirti il barattolo di zuppa di Andy Warhol, ad esempio. Madonna, una schifezza, ma come fanno a dire che arte è quella? È vero. E a Levi, so. Dove lo mettiamo? Vabbè, d'accordo. A questo punto, non lo so, non è soltanto la corazzata Potemkin, ce ne sarebbe una fila enorme. Di vabbè, 800 24 0024, siamo qui appunto per questo, avete capito? Oggi è il giorno della dissolutezza, potete fare e dire quello che volete, purché non mi facciate beccare qualche querela. Melog 2.0. Ma è stato incredibile. E a te è piaciuto, eh? Ho avuto di meglio. Ciao. Ciao. Sei nuova di qui? Sì, sono arrivata martedì. Oh. E ti trovi bene? Mm-hmm. Qui sono tutti molto carini. Lo credo, quando si hanno due bocce così. No, aspetta, hai due borracce immense. Volevo dire, vorrei farci un giro. Oh, mamma! Salve. Salve. Vorrei affogare nelle sue tettine. Non occorre incappare in un sortilegio come l'avvocato di Bugiardo che era costretto a dire sempre la verità. Oggi si può dire la verità. Oggi è giovedì grasso, oggi lecitamente, senza nemmeno bisogno di confessarlo, si può accedere a qualsiasi dissolutezza. Ma ci sono delle radici profonde, storiche, per il fatto che oggi noi abbiamo questa grande libertà di cui tutti si dimenticano. Oggi vedo anche su Facebook, che è il luogo del più avanzato pensiero digitale, che cadono tutte le nuvole. Come oggi si può fare ciò che si vuole? Nessuno lo sapeva. In un momento in cui tutti rivendicano la possibilità, il diritto di essere tutto, al contrario di tutto, di tagliarsi, aggiungersi, accoppiarsi, appiccicarsi, moltiplicarsi, nessuno sa che oggi è un giorno in cui anche l'ultimo, più banale, più semplice parroco di paese farebbe una risata se uno gli va a raccontare di essersi ingroppata la sorella del migliore amico. Beh, approfittatene. Eva Cantarella, buongiorno. Buongiorno. Eva Cantarella, giurista, studiosa del mondo antico, autrice di Dammi mille baci, Veri uomini e vere donne nell'antica Roma, edizioni Feltrinelli, grande esperta probabilmente, immagino, delle radici storiche di questo giorno che io sto cercando di rispolverare nella memoria assopita dei miei contemporanei. Beh, sì, devo dire, ho ascoltato con grande piacere e divertimento la parte precedente. Mi sembra che Fantozzi abbia colto veramente alla perfezione il senso di questa festa e della festa dalla quale questa deriva, cioè i Saturnalia. Quando Fantozzi dice il corazzata Potemkin è una cagata pazzesca, beh, il vero senso dei Saturnalia, che sono la festa appunto al quale si suole ricollegare il carnevale, è proprio quello di poter dire la verità, ma di poterla dire, come fa Fantozzi, anche al superiore. Lei pensi, posso sottolineare una cosa di tipo sì, lessicale? Una raffinatissima e gentildonna come la professoressa Cantarella ha detto cagata pazzesca. Anche lei si è lasciata andare al senso del Saturnale. No, io lo dico sempre, uso le parole, mi sembra l'ha detta Fantozzi, perché sarebbe pruderino ripeterla. Giustamente. È una parola di uso comune ormai, no? Certo, naturalmente. Poi molte sue colleghe arriccerebbero il becco per dire cose del genere, quindi mi fa piacere. No, la cosa carina è che lui la dice al suo superiore, purtroppo subisce le conseguenze, no? Sta inginocchiato. Invece la cosa bella dei Saturnalia, però andiamo con ordine, i Saturnalia sono una festa, inizialmente un giorno solo, è il 17 dicembre. Poi si allunga perché Cesare la fa diventare 3 giorni, poi Augusto la fa diventare 4 e poi mi pare Caligola 5. Da Augusto è chiaro, è come dire oggi leviamo le tasse, ognuno che voleva essere eletto ci allunghiamo i Saturnalia. Poi arriva a 7. Allora, i Saturnalia celebrano, sono una festa religiosa, perché sono la festa di Saturno, che è una divinità misteriosa, strana, non molto adorata in Italia. Comunque probabilmente viene dalla Grecia, è legato a Cronos. Comunque i Saturnalia sono il giorno nel quale il regno di Saturno era il dio dell'età dell'oro, un tempo molto anticamente, c'è la traccia in Esiodo per esempio, c'era l'idea che il tempo fosse diviso in cicli cosmici che andavano, ahimè, durante i quali ahimè l'umanità andava degradando, c'era l'età dell'oro, l'età dell'argento, del bronzo, del ferro e via via, sempre scendendo. Ebbene, Saturno era il dio dell'età dell'oro, quindi era il dio dell'età felice, dell'età nella quale soprattutto tutti erano uguali, non c'erano differenze, tutti felici, tutti uguali, nessuna differenza sociale, non c'erano gli schiavi, non c'erano i liberi. E allora durante i Saturnalia era concesso, per esempio, gli schiavi si vestivano come i liberi, perché lei sa che allora le differenze sociali erano marcate da un modo completamente diverso di vestirsi. Gli outlet non esistevano, è chiaro. No. E gli schiavi andavano, si sedevano a tavola con i padroni, a volte addirittura i padroni servivano gli schiavi. E quindi c'era una libertà completa durante questi giorni, appunto, di dire la libertà e di essere soprattutto, ecco, una cosa che si è perduta è questa idea dell'essere tutti uguali, del tornare a quella che si presume sia un'unità originaria, un'uguaglianza originaria. Che è un po' il principio della goliardia, per chi se la ricorda, erano le città in mano agli studenti che si eleggevano sindaci, papi, vescovi. Per un giorno le autorità costituite permettevano questo rovesciamento totale dei gradi gerarchici. Sì. E c'era anche poi quest'uso, perché poi c'è una strana commistione, perché poi le date scivolano, le date di questa festa, e a un certo punto alcune pratiche dei Saturnalia confluiscono nella pratica del Natale, per esempio lo scambio dei doni. Che era dei Saturnalia diventano... Sì, durante il Saturnale ci scambiavano dei regali, piccole bambole di cera, noci, dolci a base di miele, vari regali. E questa pratica dei doni è poi andata scivolando verso il Natale. Lì è una cosa complicatissima e anche molto controversa, ma insomma a un certo punto c'è una commistione di pratiche. Diciamo che per la Chiesa Cattolica questa è la settuagesima, è il periodo in cui ci si riflette per riconciliarsi con Dio. E in effetti nel momento della riconciliazione c'è questa possibilità di sentirsi umani radicalmente, fino in fondo, con tutti i nostri limiti. Uguali umani, e quindi ci si ama tutti, ci si scambiano i doni e via dicendo. Sentiamo un attimo qualche ascoltatore, sta cominciando a scalpitare per dimostrare le proprie possibilità di trasgredire o perlomeno di essere dissoluti oggi. Cristiana. Buongiorno Gianluca, io come trasgressione vorrei poter dire una cosa alla mia vicina di casa, che è una gentile signora di una certa età che vive praticamente affacciata alla finestra e parla al telefonino, e quello c'è problema, però quando io passo comincia a richiamare la mia attenzione urlandomi, chiedendomi dei bambini, come stanno, cosa fanno, se sono ammalati, e tuo marito quando torna, e tu come stai, tutto questo urlando a squarciagola, ed è una cosa che io non sopporto, proprio non, mi dà fastidio, mi imbarazza perché c'è gente che passa e quindi assiste a questo scambio. Poi da parte mia timidissima, ciao, tutto bene, scusi, ho fretta, devo andare. E oggi, oggi che è il giorno della dissolutezza, cosa potresti dirgli? Vorrei dirle, signora, si limiti ad un saluto formale quando mi incontro. Vabbè, sai che dissolutezza. Beh, cioè, signora, si limiti a un saluto formale, ma se questo è il tuo grado di essere dissoluta, vada, è ben triste. Perché penso che la gelerebbe una frase del genere, detta da me naturalmente. Ma tirali una secchiata di pipì dei tuoi bambini, non lo so, una cosa del genere, sennò che carnevale è? Un pannolino spiaccicato, ecco, in faccia non sarebbe male. Quando il bambino la fa tanto carina, tanto scioltina, prepari il pannolino e questo bel impacco lo tiri sul balcone della vicina, mi sembra il minimo da fare. Unitamente alla frase si limita in un saluto formale che io, ma a me piace moltissimo. Sì, sì. Puoi usarla quella, però ti auguro anche te di concentrarti e studiare, perché vedrai che ti verranno in mente dissolutezze ben più concrete. Laura? Laura? Pronto, sì. Avanti. Sono in autostrada. E dov'è la dissolutezza? No, la dissolutezza è che siccome io oggi compio 70 anni e sono... sto andando a trovare il mio fidanzato che ne ha 88. Ma oggi è il giorno delle dentiere bollenti, mi fa piacere. No, mi spiace, non abbiamo la dentiera. Vabbè, il modo di dire. No, ho capito. Se, dunque, andrà dal fidanzato, quindi lei si è bella preparata per questa giornata dissoluta. Certo, certo. In che maniera si è preparata? Giornata dissoluta. Mi sono preparata, mi sono fatto un vestito nuovo, mi sono comprata un profumo che volevo usare in questa giornata. Ma già l'ha messo o lo metterà... A ridosso dell'evento. A ridosso dell'evento, a ridosso dell'evento. E sarà una cena particolare, saremo veramente dissoluti nella nostra età matura. Sulla dissolutezza del suo partner ha una certezza granitica? Certezza granitica. Certezza granitica. Altrettanto granitica sulla mia. Comunque sono... Ma lei... penso che ha 70 anni e 88. Lui ne ha 88? Lui ne ha 88? Sì, 88. Però ha una bellissima testa. Non lo metto in dubbio, senz'altro, per potersi... Per avere, guardi, oggi è una giornata in cui guardo con grande dispiacere il fatto che nessuno si sia accorto che è il giorno della dissolutezza. Che lei settantenne e il suo fidanzato 88enne abbiano programmato una serata di dissolutezza, e la dissolutezza programmata ha un sapore infinitamente superiore rispetto a quella improvvisata. Programmata vuol dire che lei sa, ha la sua valigetta degli accessori dietro, lui avrà la sua farmacia dietro, ognuno sarà pronto, ognuno avrà e 118 di fuori, no, naturalmente. Beh, certo, quello sì. Tenete, ecco, il telefono tenetelo sempre a portata di mano. Certo. Però posso dire una cosa? Dica. Sarebbe un bel trapassare, diciamo la verità, varrebbe la pena. Fantastico. Se uno potesse scegliere, è un po' terrificante per chi rimane. Per chi rimane, sì. Che deve occuparsi dello smaltimento dei rifiuti, esatto. Consideri che ha fatto un gesto di estrema benevolenza nei confronti di un essere umano, e vorrei che tutti potessero pensare qualcosa del genere nei confronti delle nostre povere ossa. Felice. Buongiorno Nicoletti. Sia dissoluto. In realtà oggi la mia dissolutezza deriva dal fatto che domani compio gli anni, come la signora che ha parlato prima. E da tempo ho deciso di prendermi questa giornata free, o day off, come dicono gli inglesi, e andarmi a fare una bella sciata di fondo a Courmayeur in Val Ferret. È bella, questa è una bella uscita dal mondo. Guardi, ascoltando poi il suo programma, io lo ascolto sempre. Ho scoperto che oggi è giovedì grasso, fra l'altro non lo sapevo. Ma perché tutti ve lo siete scordati? Ma era la cosa più bella. Io sono focalizzato sul 12 febbraio, che è il mio compleanno, no? Quindi ascoltando la radio la cosa mi ha fatto doppiamente piacere, perché poi tra l'altro ho avuto ieri dei discreti, diciamo così, in ufficio con i soci, per cui ho detto la giornata capita fagiolo. E allora cosa aggiungerà alla sciata di fondo perché la giornata sia dissoluta? Io la devo dire la verità, io sono un po' come quelli che a Capodanno vanno a letto presto, perché già festeggiano. Basta che non ci vanno da soli, è un bel andare. Ma io sono già abbastanza dissoluto durante l'anno, per cui diciamo così che il mio giovedì grasso sarà molto all'insegna della salute, diciamo così, e della natura. Poi voglio dire, per la dissolutezza, vabbè, vedrò di ritagliarmi, sempre che le forze mi assistano, un angolino stasera, ecco, diciamo così, giusto per tenere fede al tema della giornata. E quale sarà la botta di vita? Bisogna vedere. Ma lei non deve fare il pudico adesso, perché scusi, se la giornata è di sorpresa, lo deve dire. Ci sono dei localini molto simpatici vicino a casa mia, sono a Milano, per cui poi... Cioè, scusi, va puttane, tanto per dirla in parole povere, questo, no? divertirebbe andare, non so, in qualche localino di lap dance e poi andare. Ah, beh, vai a farsi al lap dance e poi si fa fare la danza privata nel privé. Anche quella è una maniera di uscire dal mondo, per chi si accontenta. Melog 2.0. Il mio sogno ricorrente. Sono sdraiata a letto e sento che si avvicina una persona, si sdraia, mi abbraccia da dietro, io sono un po' rannicchiata. Capisco che è un uomo perché sento le fattezze di un uomo. Questa persona è molto effimera, molto eterea, diciamo, ma ha un fortissimo calore. Mi abbraccia e sento proprio una sensazione di calore. Mi accarezza e mi provoca un orgasmo meraviglioso. Diciamo che è un misto di amore profondo e eccitazione alle stelle. Anche questo messaggio l'abbiamo trovato nella nostra segreteria telefonica. Ricettacolo di sogni di dissolutezza da parte di ascoltatori e ascoltatrici. Ci piace che questo numero di telefono sia considerato una sorta di giornata di carnevale perennemente accesa, perennemente aperta, in cui poter rifugiare i propri sogni di dissolutezza. La dissolutezza di questa ascoltatrice è quella con la D maiuscola, è quella per eccellenza, è la dissolutezza della carne. Il giorno di carnevale, il giorno in cui la carne si toglieva dalle mense, in cui la carne però veniva compiaciuta attorno alle stanche ossa di chi pensava che un giorno almeno all'anno potesse dare soddisfazione alla propria carne senza che nessuno dovesse puntargli il dito contro, dirgli non si fa, è brutto, è male, anzi si dava senso a quel giorno proprio perché gli altri giorni fossero moderati, fossero sottoposti a un'etica di comportamento. Si può essere eticamente corretti tutto l'anno proprio perché una volta l'anno si può trasgredire. Sufian, buongiorno. O Sufian, Sufian o Sufian? Sufian, mi scusi, Sufian. Beh, io volevo raccontare la mia assolutezza. Praticamente sarebbe entrare in una banca, fare una rapina, ma non... Purtroppo c'è un sistema di autoregolamentazione del crimine. Sufian, 21enne, ha detto che la sua dissolutezza era fare una rapina, è scattata l'autocensura e quindi è stato preso. Adesso noi lo riprenderemo senz'altro. Se invece di dire rapina vorrei entrare a fare un esproprio proletario, magari probabilmente non scatta questo meccanismo, o scatta lo stesso, non lo so. In realtà è caduta soltanto la telefonata. Sufian la stiamo ricercando. Tino. Buongiorno, non sono delle forze dell'ordine, quindi non sto cercando Sufian. La ringrazio per questa opportunità. Io aspetto questa giornata tutto l'anno, quindi l'aspetto con trepidazione. Gli spunti ce ne sono tantissimi, quindi non è che accumulo storie o argomenti repressi durante l'anno. Ma però, anche scusi Tino, ho finalmente la consapevolezza di una persona che sa che tipo di giornata è oggi. Lei lo sapeva, non è che l'ha capito questa mattina. Oh, perfettamente. Certo. Che senso dà questa giornata durante la sua vita? Che senso ha dato? Allora, di equilibrio, di sobrietà, al contrario di quello che praticamente tutti fanno oggi, che si danno la pazza gioia. Ma non lo fa nessuno, io non vedo molta gioia in giro, mi piacerebbe vederla. Non è ecco, che no, e infatti è proprio questo il discorso. Io infatti l'ammiro per questo, per il suo, diciamo, messaggio profondo, è proprio questo. Sentendo le telefonate anche di queste nonnine che vanno a cercare o a trovare oggi gli amanti di 88 anni. Guardi, posso dire una cosa? Adesso dirò la mia trasgressione, visto che tutto è lecito. Io apprezzo, ammiro e una profonda e passionale attenzione per queste signore che chiamano e mi rendo conto che oggi le donne, per quanto siano meravigliose, curate, tacchettate, iperlabiate, dai 18 ai 35-40 anni sono radicalmente fighe di legno, quasi tutte. Bisogna ricominciare a trovare un minimo di barlume di donna quando si va oltre 50 anni. Sono perfettamente d'accordo con lei. Sono dei manichini, come dice lei. Sono di legno, di plastica, le possiamo definire. Sì, ma il termine figa di legno l'abbiamo usato più volte, ormai è sdoganato. Sì, certo. Ecco, io direi questo, che a queste signore, comunque in ogni caso, appunto, siccome penso che la donna abbia, come dire, un ruolo importante, al di là dell'aspetto sociale, proprio come anima, oggi hanno perso questa figura di anima nei confronti degli uomini. Diciamo che le vere guardiane della soglia di ogni dissolutezza sono le donne, altrimenti non avrebbe senso. Certo, Certo, però hanno perso questo spirito, hanno perso questo spirito e se ne ricordano solo oggi, o magari anche durante l'anno, per dire, per fare delle sciocchezze grosse. Quindi allora andiamo al punto, lei Tino che fa oggi? Concreti consigli? Oggi, intanto sto lavorando. È già questo. Sono in macchina e sto lavorando. Continuerò a lavorare fino a stasera, questa sera tornerò a casa, giocherò un po' col mio pupo, cenerò. E questo sarà per me la mia giornata della dissolutezza. Se questo la fa sentire felice, va benissimo. Io guardi, da un po' di giorni, lo dico, dicendolo mi rendo conto che mi espongo alla peggior delle vergogne. Da un po' di giorni mi piace giocare al ristorante. Licenzio nel senso la faccio andare a casa 2 ore prima la signora che ci aiuta in casa e la sera gioco al ristorante con i miei figli, cucino, loro si siedono, facciamo cose assurde, dei pastrocchi terribili, però è il più grande divertimento, è diventato il momento dissoluto della mia giornata, quindi la capisco perfettamente, non che non ne abbia altri o ne desideri altri, ma gli altri non si possono raccontare. Gianna. Buongiorno. Allora, io innanzitutto vorrei dare una definizione alla parola dissolutezza. Oddio, definirla già significa un po' ammosciarla però. Non lo so, ci provi. Però, ci provi, magari lei riesce a compiere un miracolo. No, non credo, non sono così in gamba. Allora, vuol si dire corruzione anche, no? Allora, vorrei essere, non ho il dono della sintesi purtroppo, no, ci però provi. Hanno telefonato questa mattina persone di una certa età, è bellissima. Lei quanta età? Che età lei? 45. Vabbè, lei ancora, è nella zona che ho definito a rischio di figa di legnismo però. Me ne sento 24 e non mi vesto come una 24enne, però 24 è l'età giusta. E dunque, per cui hanno chiamato queste signore che senz'altro sentono di più il giovedì grasso o la dissolutezza. Pronto? Si ricordano periodi in cui la tenuta etica di tutto l'anno permetteva una felicissima dissolutezza. Ecco, appunto. Adesso i ragazzi sono abituati, e noi lo stesso. Ma lei non si preoccupi dei ragazzi, lei pensi ai suoi coetanei. Ok, noi siamo abituati a fare tutto quello che vogliamo in qualsiasi periodo dell'anno, no? E la cosa, adesso non so se il Trudignon è giusto, comunque la cosa che mi ha molto colpito, meravigliato, è il fatto che ci abituano a qualsiasi dissolutezza etica. Faccio l'esempio di Marrazzo, io ho sentito una notizia che mi ha molto sconcertata, sì, che torna, che vorrebbe tornare in televisione. Sì, ma saranno fatti loro, non è che la cosa in questo momento ci interessa. Ma davanti a questa cosa noi non ci scandalizziamo. Per sì, cui... ma lei invece di scandalizzarsi di Marrazzo, se vuole può farlo, è libero di fare quello che vuole, perché non pensa a quello che potrebbe fare oggi? Qual è il suo pensiero dissoluto? Me lo tiri fuori. Il mio pensiero dissoluto è quello che sto facendo tutti i giorni, che sto tradendo una mia amica in un modo orrendo, con un suo uomo, diciamo. Cioè nel senso che gli tromba il fidanzato. Continua a farlo. Dia un senso particolare oggi. Oggi lo faccia brindando alla salute della fidanzata a cui lei dà questo momento di relax occupandosi del suo uomo, non se ne deve occupare lei. Paola, chiudiamo con Paola che siamo veramente a 30 secondi alla fine. Paola, buongiorno. Buongiorno Gianluca. La mia dissolutezza di questa mattina è sapere a che ora prende la metropolitana. Ma non glielo dirò manco sotto tortura. Ah, mi dispiace per lei perché io mi sarei messa dietro di lei nella folla della metropolitana che si pigia dove succede in genere. Sì, ma questo vocione mi inquieta un po' però. No, io l'avrei palpata, l'avrei carezzata, l'avrei messa in condizioni di imbarazzo, forse di piacere, forse di curiosità. Guardi, mettere me in condizioni di imbarazzo è un po' difficile, ma non perché io sia sulla metropolitana può capitare di essere imbarazzati, le assicuro. Va bene, auguri, se un giorno mi incontra... No, la dissolutezza non è solo quello. E qual è? È che a un certo punto io avrei preso le sue sfere riproduttive, gliele avrei strizzate, ed è chiedendogli per favore di non usare più termini come ingroppare o trombare. Va bene, useremo metafore gioiose, ma almeno il giorno della libertà ci lasci usare ogni espressione lessicale. Comunque ho già dato anche da quel punto di vista, quindi non creerebbe un grande problema all'umanità. Ci sentiamo domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.